Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Era come la sabbia, fine, finissima. Era ancora più fine della sabbia. Quella c'era per terra, un dito di polvere, anche di più, dappertutto. Tutti camminavamo sulla polvere. La polvere non aveva colore ed era talmente impalpabile che noi magari la vedevamo, ma non sapevamo che c'era, perché non è che si vedeva proprio. Era stesa su tutte le cose. I davanzali erano tutti i giorni da spolverare. Le piante, gli alberi, bisognava ben toccare le foglie con le dita per arrivare al colore reale. Quando cadeva, la pioggia puliva la polvere. La lavava via dalle strade, dalle macchine, dalle piante. La disperdeva. I lavoratori dentro la fabbrica, nella mezz'ora di riposo, mangiavano il panino con la polvere. La tuta di mio marito era blu, non scurissimo, ma non proprio azzurra, un colore che andava in quegli anni. C'erano i pantaloni con la pettorina e sopra la giacca. Sul petto, a destra, c'era cucita la scritta Eternit. L'ho lavata tutti i giorni, per 18 anni, quella tuta. Prima a mano nel mastello, poi con la lavatrice, come tante altre donne. Mio marito, Mario Pavesi, è entrato all'Eternit nel 1958. Come entrare in banca? Dicevano a Casale in quegli anni. Mio marito è morto il 17 maggio del 1983 di mesatelioma pleurico provocato dalla polvere di amianto. Dopo di lui, per lo stesso male, se ne sono andati mia sorella Libera, mia cugina Anna, mio nipote Giorgio e ultima nel 2004 mia figlia Maria Rosa, aveva 50 anni. Nella zona di Casale Monferrato, dagli anni 60 a oggi, sono morte per malattia legate all'amianto circa 1800 persone. Il 13 febbraio di quest'anno il Tribunale di Torino ha condannato a 16 anni i due proprietari della Eternit per disastro doloso e omissione dolosa di misure infortunistiche. Ed è proprio di come si sia arrivati a questa storica condanna nel febbraio 2012 che parleremo nella puntata di oggi. La seconda è dedicata al caso Eternit di Casale Monferrato. Venerdì scorso vi abbiamo raccontato a grandi linee la storia dello stabilimento, mentre la prossima settimana ci concentreremo sull'inquinamento e sui danni alla salute che l'amianto provoca oggi in tutto il mondo. ATT strides and she stops to abide by the law that she herself has set. That 18 steps is one complete set, and before the next 9 right and 9 left. She looks up at the blue and whispers to all of the above, don't let me drown. Don't breathe alone, no kicks, no pangs, no broken bones. Never let me sink, always feel at home. No sticks, no shanks and no stones. Never leave it too late, always enjoy the taste of the great, great, great, great world of hearts. As all dogs everywhere bark, bark, bark, bark, it's worth knowing. Like all good fruit, the balance of life is in the ripe and ruin. Buongiorno a tutti, siamo sempre Tania e Jacopo. Yeah. Salutiamo la nostra tecnica Flavia che anche oggi ci assiste e ci aiuta. E Margherita ancora non c'è, speriamo arrivi sempre per la puntata dopo. quella che abbiamo appena sentito era la voce di Romana, la Romana, la conosciamo tutti così a Casale, Romana Blasotti Pavesi, nella lettura di questo brano fatta Quello che non ho, il programma di Saviano e Fazio. Dicevamo, insomma, un processo storico, appunto. A Casale ancora si registrano più di 50 casi di mesotelioma all'anno. Perciò non stupisce il fatto che ci sia voluto una giornata intera per registrare i nomi delle persone che si sono costituite parte civile. Prima di oggi, soltanto il processo di Norimberga, quello per i desaparecidos in Argentina e quelli per genocidio hanno coinvolto direttamente o indirettamente più persone. Il 10 dicembre 2009 comincia il giudizio contro gli eredi dell'impero dell'amianto. Il giorno di apertura del dibattimento pubblico si ritrovano a Torino da mezza Europa, dagli Stati Uniti, dal Brasile, dal Messico, dal Perù, da ogni angolo del mondo, insomma, dove ancora si muore d'amianto. 26 sono gli avvocati a rappresentare la difesa degli imputati, non meno sono i legali delle parti civili. I magistrati della pubblica accusa sono Raffaele Guarignello, Gianfranco Colace e Sara Panelli. Il PM Sara Panelli specifica subito che c'è un punto fondamentale da cogliere, ovvero, sono le sue parole, l'esistenza di strategie che sono state elaborate a livello internazionale dalle maggiori industrie dell'amianto. Queste industrie hanno stretto accordi, hanno costituito società per aumentare i loro profitti, hanno agito in modo compatto e unitario per rendere credibile un uso possibile dell'amianto in sicurezza, nascondendo invece l'evidenza della micidiale cancerogenicità del materiale. Per esempio, negli anni 70 si modifica la lavorazione, cambiando il ciclo da ciclo secco a parzialmente umido, si riduce così la polvere sollevata e apparentemente anche la minaccia per i polmoni. Sempre il PM Panelli. La nuova minaccia per gli svizzeri non viene dalla pericolosità dell'amianto, che è conosciuta da decenni e viene discussa all'interno degli intrecci internazionali da lungo tempo, ma dal fatto che l'opinione pubblica, primi tra tutti i sindacati dei lavoratori, inizia a rendersi conto di quella pericolosità. Quindi, pur di continuare a produrre ed accumulare profitti, gli svizzeri, in perfetta linea con la strategia diffusa a livello internazionale, difendono la tesi dell'uso controllato dell'amianto, costringendosi a qualche timida miglioria che all'apparenza possa dar credito alla loro tesi. E questo, Jacopo, è precisamente ciò che ancora oggi in altre parti del mondo altri proprietari di fabbriche di cemento amianto provano a fare. Quest'idea dell'uso controllato è molto gettonata. Si arriva persino a dire, sì, beh, l'amianto di per sé fa male, ma come lo usiamo noi qui non ci sono problemi per nessuno. Sono palesi menzogne che in questo caso, come vedremo, sono valse una condanna al processo di Torino. In aula si ricordano momenti storici che rivelano che le industrie dell'amianto erano perfettamente a conoscenza degli sviluppi scientifici sulla pericolosità del materiale e che, anzi, esse stesse hanno commissionato studi cercando poi di nascondere i risultati ottenuti per perseguire la logica del profitto. La conclusione del magistrato è netta.

immondizia, che tagli il nome per fuori, che per noi rimane quello che è. Eterna ingiustizia, chiamala come vuoi, ma per noi rimane tristezza. Chiamala come vuoi, ma per noi rimane immondizia. E dagli il nome che vuoi, che per noi rimane quello che è eterna ingiustizia. Un punto interessante e cruciale. La domanda: si poteva produrre senza amianto? Cioè, si poteva condurre un'attività industriale capace di creare ricchezza per i proprietari e lavoro per i cittadini senza al tempo stesso seminare malattie e morte? La risposta del pool di magistrati non lascia dubbi. Queste sono le loro parole. L'ostacolo che impedì a Eternit di adottare anche in Italia prodotti senza amianto, così come avveniva già in Svizzera o in Germania, non era tanto di tipo tecnico quanto di tipo economico. A dettare ogni scelta del gruppo Eternit è lo stesso Schmidaini. La logica è adempiere al proprio dovere di tenere la situazione sotto controllo, ma senza mai mettere i laboratori a conoscenza della realtà, eseguendo i rilievi in modo da non poter davvero evidenziare i rischi degli addetti a ogni reparto. Ora Jacopo ci legge il ragionamento del PM Guariniello al termine della requisitoria. Un elemento soggettivo mai prima visto. Un dolo non solo eventuale, ma addirittura diretto. Abbiamo visto che a partire da un certo punto gli imputati si sono rappresentati per forza di cose il verificarsi del disastro, quale conseguenza certa della propria condotta. E non si sono limitati ad accettare il rischio che il disastro si verificasse o continuasse a verificarsi, ma hanno accettato e continuano ancora oggi ad accettare questo immane disastro. E ancora, non meno significativa mi sembra la capacità di delinquere dimostrata dagli imputati, da questo vertice di una multinazionale. Mossi gli imputati dalla precisa volontà di nascondere o negare, sia con i lavoratori sia con le popolazioni, la cancerogenicità dell'amianto, mossi dalla precisa volontà di proseguire l'attività a tutti i costi, in condizioni tali da porre a repentaglio la salute dei lavoratori e delle popolazioni. Disposto poi in particolare, Stefan Schmidaini a mascherare dietro un declamato spirito filantropico sia attività di monitoraggio degli ambienti di lavoro, direi addirittura geniale, preordinato a nascondere l'effettivo pericolo per i lavoratori, con l'apporto di asseriti esperti come Roboc, sia attività lobbistiche, sia attività di spionaggio preordinate a tenerlo a riparo da temutazioni giudiziarie. La difesa a questo punto come reagisce? Innanzitutto insiste sul fatto che Schmidaini svolgeva un ruolo di coordinamento dei vari stabilimenti, ma che poi le decisioni e la gestione effettiva avveniva in autonomia da parte del singolo stabilimento, di modo che nel caso in cui le accuse si fossero rivelate fondate, comunque non ricadesse la colpa direttamente su Schmidaini. Poi, sempre per la difesa, l'imputato era convinto che l'amianto si potesse usare in tutta sicurezza. E, peraltro, contestano anche i tempi del processo, sono passati più di 30 anni dai fatti contestati, questo renderebbe impossibile a chi è accusato di difendersi al meglio, perché o i documenti non si trovano, oppure ci sono testimoni, alcuni morti, altri che non sono attendibili perché è passato troppo tempo. La scelta è di sollevare 5 eccezioni di illegittimità costituzionale, oltre a 2 eccezioni di nullità su atti del procedimento e a un'eccezione di competenza territoriale, per spostare il giudizio a Casale, Napoli o Reggio Emilia. Insomma, dopo aver cercato in tutti i modi di evitare un processo in Italia, ora la proprietà dell'Eternit cerca legittimamente di evitare una condanna, ma anche di bloccare un percorso che da Casale sembra condurre a nuove e numerose rivendicazioni da parte di ammalati e familiari di defunti in altri paesi, in Europa e in tutto il mondo. Il processo si conclude il 13 febbraio 2012, ma prima si mette in atto un'altra strategia difensiva in extremis, per cui chiaramente il tentativo è quello di far uscire più parti civili possibile dal processo. Tra le tante città costituitesi parti civili, tra i tanti comuni, c'è chiaramente quello di Casale Monferrato, a cui Schmidaini, il dicembre 2011, offre 18,5 milioni di euro. affinché appunto il comune riveda le proprie posizioni. La cosa che lascia tutta Casale di stucco è che il sindaco Giorgio De Mezzi ufficialmente accetta, non tanto ufficialmente, scoprirlo non è stato così semplice. In ogni caso viene fuori questa questione e De Mezzi si giustifica dicendo che i soldi servono alla città, ci sono da bonificare tonnellate di amianto e insomma il suo ragionamento è: occorre decidere non solo con il cuore ma anche con il cervello. Bene, a questo punto c'è da dire che molta parte di Casale si ribella a questa decisione, innanzitutto l'associazione familiari vittime dell'amianto, che organizza assemblee dove si discuta di questa questione, di che senso ha che la città di Casale sia costituita parte civile in questo processo. Per esempio Bruno Pesce, che dice: siamo diventati una multinazionale, la multinazionale delle vittime dell'amianto, e noi di Casale abbiamo un ruolo di punta, siamo un riferimento per milioni di persone ancora esposte a questo rischio mortale. Oppure anche Maria Assunta Prato, che dice: che esempio diamo ai nostri ragazzi, che tutto si può comprare, che tutto è in vendita. E il ragionamento quindi che fa la città a quel punto è: non sono quei soldi che ci interessano, è la giustizia. Il passo indietro da parte del comune avviene grazie alla telefonata del ministro Balduzzi, dell'allora governo tecnico, che forse perché è di Alessandria, quindi questa questione Eternit già la conosceva, però insomma telefona a De Mezzi. Dice che il governo farà convergere su Casale fondi per la bonifica e la ricerca, in questo Balduzzi coinvolge anche Corrado Clini, il ministro dell'ambiente, e insomma si tratta di una collaborazione tra lo Stato, la Regione e gli enti locali, e alla fin fine si conferma lo stanziamento di 9 milioni per le spese del prossimo biennio per la bonifica. È la svolta, a questo punto il sindaco comincia una rapida retromarcia. Il 13 febbraio, finalmente il giorno della sentenza, partono 26 pullman da Casale per andarla a sentire. La sentenza di condanna, appunto, vengono pronunciati 6.300 nomi, sono le parti civili che devono essere risarcite, e infatti la lettura della sentenza richiede poco più di 3 ore. I risarcimenti sono 100.000 euro ai sindacati, 20 milioni alla Regione Piemonte, 25 al Comune di Casale Monferrato e 100.000 euro all'Associazione Vittime dell'Amianto. Anche per questa puntata chiudiamo la questione Eternit, la riprenderemo settimana prossima. E adesso? Benvenuti al nostro Buffier. Sempre più sensuale, ed è come al solito, come nel nostro stile, la lettura dell'agenda di Jacopo. Bene signori e miei gentili ascoltatori, domenica 26 gennaio il presidio studentesco dei ragazzi dei licei di Bologna di Libera festeggeranno il loro secondo compleanno. Auguri! Tanti auguri, è una data molto importante per chi è vissuto qua, ha fatto le scuole qua. Per questo vi aspettiamo alle 3:30 in via del Pratello numero 53. Inoltre, mercoledì 29 gennaio, presso l'Istituto Gramsci di Bologna, alle ore 17 ci sarà l'Assemblea Territoriale di Miseria Ladra, in cui sono state invitate tutte le realtà sociali del terzo settore che operano a Bologna. E vi lasciamo con Shomer Mamilaila di Guccini. La notte quieta, senza rumore, c'è solo il suono che fa il silenzio, e l'aria calda porta il sapore di stelle assenti. Le dita sfiorano le pietre calme, calde d'un sole e memorio mito, il buio ha preso con sé le palme, sembra che il giorno non sia esistito. Io, la vedetta, illuminato, guardiano eterno di non so cosa, cerco innocente o perché ho peccato, la luna ombrosa. E aspetto immobile che si spanda l'onda di tuono che seguirà al lampo secco di una domanda la voce d'uomo che chiederà. Shomermami Laila, Shomermami Lel, Shomermami Laila, dammi il del, Shomermami Laila, Shomermami Lel, Shomer Mami Laila Mami Lel, Shomer Mami Laila, Shomer Mami Lel, Shomer Mami Laila Mami Lel. Sono da secoli o da un momento fermo in un vuoto in cui tutto tace. Non so più dire da quanto sento angoscia o pace. Coi sensi tesi fuori dal tempo, fuori dal mondo, sto ad aspettare che in un sussurro di voce o vento qualcuno venga per domandare. E gli avverto radi come le dita, ma sento voci, sento un brusio e sento d'essere l'infinita eco di Dio. Dopo i numeri come sabbia, ansiosa e anonima oscurità, ma voce sola di fede o rabbia, notturno grido che chiederà. Shomer Mami Laila, Shomer Mami Lel, Shomer Mami Laila, Mami Lel, Shomer Mami Laila, Shomer Mami Lel, Shomer Mami Laila, Mami Lel. Shomer Mami Lel, Shomer Mami Lel, Mami Lel. La notte udite sta per finire, ma il giorno ancora non è arrivato. Sembra che il tempo nel suo fluire resti inchiodato. Ma io veglio sempre, perciò insistete, voi lo potete, ridomandate. Tornate ancora se lo volete, non vi stancate. Cadranno i secoli, gli dèi, le dee, cadranno torri, cadranno regni e resteranno di uomini e idee, polvere e segni. Ma ora capisco il mio non capire, che una risposta non ci sarà, che la risposta sull'avvenire è in una voce che chiederà. Shomer Mami Laila, Mami Lel, Shomer Mami Laila, Shomer Mami Lel, Shomer Mami Laila, Mami Lel.